Allora, cominciamo. Dunque, Renato Curcio non c'è perché è rimasto bloccato a Roma dalla nevicata e il maltempo e il conseguente blocco della ferrovia. Vabbè, ci dispiace. Possiamo forse, per prenderla bene, considerare che in qualche modo è una sorta di nemesi. Lui veniva a parlare della colonizzazione dell'immaginario prodotta, sarebbe venuto a parlare e verrà a parlare della colonizzazione dell'immaginario prodotta dalle nuove tecnologie digitali e invece è rimasto fermato da un treno che non parte, della neve sui binari, eccetera. In qualche modo, diciamo, ci dispiace, ma ci dà una speranza che il gioco non sia ancora del tutto fatto, come talvolta dalle pagine dei suoi libri sembrerebbe di poter vedere. Io dirò due cose, perché questo è il primo incontro di quella che vorrebbe essere una serie che tende ad essere lunghetta, che potrebbe essere lunghetta nel tempo. Noi abbiamo adesso messo in programma 5 incontri sulla carta in questo primo gruppo, però ne stiamo già pensando altri e direi la nostra intenzione è di andare avanti fino a che le forze ce lo permettono. Dico subito, noi chi siamo? Diciamo, la proposta originaria nasce nel 2014 in archivio qua in Conchetta quando facevamo una serie di incontri che si chiamava Le lunghe ombre del diritto, dove cercavamo di descrivere quelli che sono gli effetti perversi della norma giuridica che oggi è una delle ultime religioni che hanno in qualche modo efficacia nell'immaginario. E ci dicevamo che sì, le lunghe ombre del diritto, ma che forse anche c'erano degli aspetti di relazione con la materialità dell'esistenza che avevano dei risvolti che sarebbe stato interessante vedere ed affrontare. Nel corso del cammino ci è capitato, da questi anni, ci è capitato più volte di avvicinarci a delle questioni di questa fattezza. E però solo alla fine dell'anno scorso, con l'indispensabile e grosso contributo del collettivo Ippolita, della Unit Lab, dell'ACLAB Unit, siamo riusciti a mettere insieme le energie per far partire questa macchina. Questo gruppo così descritto tendenzialmente non vorrebbe restare solo, cioè è aperto ad eventuali allargamenti e nuovi inserimenti. L'idea di fondo è quella che la serie delle questioni è così vasta che solo una grossa collettività può essere in grado di affrontarla, descriverla, aggredirla e magari cavarne fuori qualcosa che serve. Perché dico così vasta? Voi avrete visto nel programma adesso in qualche modo la parte delle tecnologie digitali la fa da leone, però il Lost nasce con una classificazione che vale quanto valgono le classificazioni, cioè nulla, in 4 aree distinte. Un'area, l'abbiamo detto, è la scienza, una è la tecnica, una sono le tecnologie digitali che hanno un capitolo apposta perché appunto sono molto ingombranti e di pregnante attualità, ed una è la conoscenza e la trasmissione della conoscenza e la trasmissione del sapere. Che cosa vuol dire questo? Da qui si capite subito che c'è della follia dietro questo progetto o quantomeno una grossa ambizione che non viene nascosta. L'idea è quella che nell'interazione col mondo circostante, il mondo materiale ma anche il mondo sociale, nel percorso storico l'uomo, le collettività elaborano degli strumenti di interazione e di descrizione di quello che ci hanno attorno. Costruiscono dei modelli costruiscono delle ideologie per descrivere quello che c'è attorno. Noi abbiamo delle importanti esperienze di qualche decina di anni fa in Italia e non solo, in cui questa questione di quello che era il senso vero, appunto, le lunghe ombre delle scienze e delle tecnologie, quello che era il senso vero nella relazione sociale e nella relazione di conflitto, del conflitto sociale, veniva studiato, esplicitato e in qualche modo affrontato compiutamente. Cito solo per dire le riviste Sapere, Scienza Esperienza, tutto il lavoro fatto da Medicina Democratica. Cito ad esempio Medicina Democratica che con gli operai della Montedison di Castellanza fanno un lavoro di ricerca interna per ricostruire il ciclo produttivo e capire quali erano gli elementi di nocività che venivano a cui venivano quotidianamente sottoposti, cosa di cui erano tenuti naturalmente all'oscuro perché non doveva essere loro competenza. Quindi loro fanno, questo è un esempio significativo, fanno un lavoro di scoperta, svelamento, di autoformazione e si dotano di quelli che sono gli strumenti poi per capire e intervenire sulla realtà materiale e nel loro caso anche sociale, perché questa cosa diventa poi, prende la forma del conflitto. L'impressione che abbiamo è che di queste cose oggi si parla meno, che questa cosa diciamo si è collettivamente tutti un pochino travolti da una progressione di eventi, strumenti, tecnologie, analisi, proposte, eccetera, e non si riesce a fermarsi un attimo a focalizzare su quello che è il senso vero delle cose e su che cosa diciamo effettivamente e realmente sta succedendo. Quindi la premessa principale, almeno io posso dire senz'altro da parte dell'archivio e del centro sociale e della libreria, è che non ne sappiamo nulla e che quindi la ragione che ci spinge a fare questa cosa è perché invece ne vogliamo sapere qualche cosa e vogliamo che delle cose che ci vengono nascoste non lo siano più e vogliamo che potere capire anche in funzione di una di quella che è la nostra prospettiva futura, che cosa vogliamo e in che misura vogliamo utilizzare gli strumenti di approccio, descrizione e comprensione della realtà. Per far questo, nella ipotesi generale dell'host, affronteremo tanto delle questioni specifiche quanto cercheremo di fare delle ricostruzioni storiche, quanto cercheremo di trovare degli elementi, come dire, di analisi più generale che in qualche modo ci permettano di costruire un quadro complessivo più grosso. Non sappiamo al momento dire, e anche questa è una cosa che mettiamo sul tavolo, come raccogliere i frutti di questo lavoro. Nel senso che adesso abbiamo ipotizzato una serie di incontri. Nostra intenzione è quella di trascriverli su carta, di renderli disponibili, di renderne disponibile l'audio, di fare una raccolta di materiali a corredo delle cose che vengono dette che possono in qualche modo servire al ragionamento. Sarà poi necessario tirare un pochino le fila e cercare di ricostruire un quadro un po' che colleghi i vari punti che sono apparentemente distanti ma in realtà sostanzialmente molto più vicini forse di quanto non sembri, che potranno rappresentare questi pezzi di ragionamento. Abbiamo, come si usa fare, fatto un blog in cui abbiamo messo un documento un po' lungo. Il documento un po' lungo, un po' per scherzo, l'abbiamo chiamato RFC, come le Request for Comments che hanno visto gli albori dell'internet pre-2000, diciamo, pre-1990, i primi. Ed era quando chi lavorava attorno a questo, a queste cose, a questi, i tecnici, gli operatori, poneva delle questioni, suggeriva delle ipotesi di soluzione, appoggiava il foglio e chiedeva dei commenti, raccoglieva delle osservazioni, richiedeva dei suggerimenti, e alla fine di questo lavoro di raccolta, rimessi insieme i pezzi, arricchito il ragionamento col contributo di tutti quelli che avevano voluto partecipare, si passava allo step successivo, si chiudeva questo capitolo, si definiva questo protocollo e si passava alla questione successiva. Per fare un esempio delle questioni che stanno sul campo, questa cosa non è finita, cioè le RFC esistono ancora, vengono fatte. Naturalmente, che cosa è successo? È successo che nel corso degli anni hai tecnici o comunque quelli che lavorano nel settore si sono sovrapposte o aggiunte con un grosso peso delle grosse multinazionali del profitto che partecipano attivamente a questi gruppi di lavoro e che quindi contribuiscono con un peso significativo alla definizione o alla, come dire, connotazione di come poi la faccenda viene chiusa. Quindi in questo senso è mutato lo strumento. Comunque, vabbè, era per dare un esempio, come dire, delle piccoli spunti di riflessione così messi là per sollecitare un pochino e dare forse meglio l'idea. E così, per scherzo, noi abbiamo fatto questa RFC, che è un documento un po' lungo, per scherzo ma non del tutto, perché chiederemmo dei commenti, o forse quello che potrebbe essere l'esito di questo percorso lungo è quello di arrivare a un completamento, a una riscrittura, a un aggiornamento, a un'integrazione di questo documento iniziale, che sostanzialmente, essendo documento iniziale, non può che fissare dei fondamentali paletti, non ha l'ambizione di andare molto oltre. Che cosa posso dire? Là abbiamo attivato una newsletter per chi volesse essere informato. Noi abbiamo messo il calendario di questa prima serie su Facebook, ma non lo faremo più, e quindi tendenzialmente resteremo fuori da questo giro del social, per delle ragioni forse ovvie, ma forse mai a sufficienza. E quindi un po' funzioneremo col passaparola. Il sito, detto che c'è, abbiamo questa mailing list, chi vuole poi magari lascia l'indirizzo, se no sul sito c'è scritto come scrivere. Un'altra cosa, questa importante, non vorremmo fare delle cose specialistiche. Un altro problema è questo, che se volete, nella divisione che ho fatto delle quattro aree, riguarderebbe la quarta, cioè le tecniche della trasmissione del sapere e della conoscenza. Nel loro svilupparsi le scienze hanno elaborato dei formalismi anche molto complessi, che servono per descrivere appunto il mondo, la materia nelle sue parti ed accidenti. Questa cosa di per sé produce distacco e tende, essendone figlia, a rappresentare, come dire, una divisione tra il sacerdote e il popolano, no? Il quale non è ammesso a questo sapere perché ha altro da fare, perché non gliene frega niente neanche di sapere come è fatta la funzione d'onda in realtà, per cui è roba altra da sé e quindi lo esclude. Allora nostra idea sarebbe quella, anche questa è una scommessa, potete capire, di non fare delle cose troppo specialistiche e quindi di cercare di rendere comunicabili anche delle ipotesi, teorie che sono considerate di patrimonio dei dotti. Ecco, non è detto che questa cosa sia sempre possibile, perché contemporaneamente, oltre a fare un lavoro di controinformazione, vorremmo fare anche della formazione. La formazione talvolta deve entrare nello specifico delle questioni. Posso per esempio pensare al settore delle tecnologie digitali. Allora potrebbe capitare delle volte che si decida di approfondire in maniera molto più specifica alcuni aspetti della cosa. Noi pensavamo di fare in questo modo, di garantire metà serata semplice, sempre, almeno metà serata semplice, riservando se ci sono, se riteniamo, come dire, in qualche modo necessario entrare un pochino più nello specifico, una seconda parte magari un pochino più per addetti ai lavori. Non è facile questa cosa, né è ovvio se questo è possibile del tutto, perché naturalmente lì c'è tutta la questione di quanto questa traduzione o trascrizione poi snatura l'essenza dell'ipotesi stessa, quindi sarà un toccare con mano ed un affrontare direttamente la materia. Le scienze è facile da capire, la tecnica penso pure, naturalmente appunto è l'ambito, come si dice, è vastissimo, perché andiamo sulle tecniche, diciamo ci piacerebbe spaziare dalle tecnologie militari alle autoproduzioni, per dire, come l'ambito possibile in cui può girare questo ragionamento. Il digitale la fa da leone, indubbiamente, però non dovrebbe essere l'unico interprete, perché altrimenti ci ritroviamo a fare uno stereotipo un pochino troppo semplificato. E la trasmissione del sapere riguarda tanto le questioni che toccano la scuola. La scuola intesa come l'ambito dove la gente ha a che fare con la conoscenza, dove i ragazzi, piccoli o grandi, hanno a che fare con la conoscenza. Un tasto dolente di questi tempi, in parte lo è sempre stato, che però è specchio di ciò che la società desidera che si sappia, o che la società desidera che si sviluppi. Una cosa che abbiamo detto e anche scritto nel documento qua, adesso è una parentesi, riguarda la scuola: non è vero che la scuola non funziona, la scuola funziona benissimo, la scuola fa esattamente quello che deve fare, non è un problema questo. Poi uno può dire che non fa più le cose di un tempo, non fa le cose che che si desiderano, però la sua funzione sociale in qualche modo la rispetta, e quindi questa è una questione. L'altra questione potrebbe riguardare invece la parte sempre scolastica dei gradi più alti, cioè l'università, che vuol dire anche i luoghi, quelli che sono i luoghi un tempo delegati all'elaborazione di forme di sapere tra virgolette libero. In una società di classi non è mai dato di avere un sapere libero, però diciamo anche della ricerca a fondo zero, fatta diciamo senza uno scopo diretto immediato, eccetera. Questa cosa oggi non è più data. Questa cosa non è più data, in realtà c'è una forma di privatizzazione della ricerca in tutti i campi enorme, che è legata direttamente alla potenza finanziaria che viene investita dalle compagnie di profitto, dagli eserciti, dagli stati nazionali, con degli scopi in qualche modo precisi, che fa sì che quello che in qualche modo un tempo si poteva pensare fosse pubblico, ora tende ad essere sostanzialmente segreto, o oggetto di brevetto, o soggetto a copyright. Quindi muta anche in questo senso il produrre sapere, è mutato, e su questa roba qua pensiamo che sia necessario riflettere, e forse qualcosa da dire c'è, non è che proprio uno può stare sempre, deve stare sempre silente e osservare. Mi viene in mente, e poi la faccio grosso modo finita, che all'interno dei paletti che sono, troverete in questo documento, ce n'è uno a cui tengo, e nel suo sviluppo la scienza borghese, possiamo chiamarla così senza problema di far male a nessuno, ha elaborato degli strumenti di, tra virgolette, garanzia della ipotesi scientifica, del valore scientifico. Grosso modo, diciamo, a partire da Galileo si è richiesto che ci fosse della sperimentazione, che ci fosse la descrizione dell'avvenuto, via via poi che fosse possibile riprodurre l'esperimento, che fosse possibile verificare che questa cosa detta effettivamente era, o correggere laddove in qualche modo non lo era. Tutto ciò preso con le pinze, perché si sa che ci sono certi ambiti in cui la riproducibilità dell'esperimento non è possibile, come per esempio nella ricerca storica o alcuni settori dell'astronomia, per cui diciamo messo con le pinze, però il rapporto con la sperimentazione e la relazione con la materia e la sua descrizione era diciamo un presupposto, e è diventato oggettivamente un presupposto immodificabile. A questo si aggiunga, perché naturalmente questo lavoro è fatto da degli uomini, da delle collettività di uomini, che in questo lavoro questo diciamo la garanzia dei risultati dipende dalla valorizzazione che viene fatta dalla collettività che li sta effettuando, che sta effettuando questi esperimenti, queste verifiche, e quindi risponde alla domanda di questi. Allora, lì piace citare questo biologo Fleck polacco, che è un po' un genitore di Kuhn, un genitore dal punto di vista della produzione, dell'analisi della storia della scienza, il quale sottolinea grandemente il carattere collettivo della produzione scientifica e in qualche modo e la relazione che esiste tra la collettività che la produce e la ricerca stessa che viene fatta, e in qualche modo ci pare che possa dare un segno in avanti su quello che noi potremmo desiderare che sia, e che quindi si compone con questa che è scritta nell'introduzione, l'abbattimento delle barriere tra i dotti e i villici, e l'estensione della, come dire, collettività che produce la riflessione sul mondo e l'azione sul mondo, e pensando che in realtà questa cosa diventa, oltre ad essere diciamo la strada più desiderata da noi, più meglio vista, è anche quella di maggiore garanzia che effettivamente il mondo rappresentato sia quello che è e non sia, come si può dire, coperto da veli di falsità o di sopraffazione. Ecco, che cosa ci serve da voi adesso o dopo? Dei suggerimenti, delle disponibilità, la voglia di fornire materiali, di venire. Noi facciamo una riunione settimanale che fino ad ora è stata il giovedì alle 6 qua. Dovrebbe essere una riunione periodica abbastanza regolare, potrebbe essere il luogo in cui si raccolgono gli spunti via via delle discussioni fatte, oltre che fare l'operazione di produrne, di presentarne o programmarne di nuove. È anche possibile, se uno non potesse esserci, scrivere, e cercheremo poi noi di raccogliere in questa ipotetica e un po' buffa request for comments quelli che sono via via le cose raccolte. Allora, una delle cose che ci siamo detti per le prime volte che ci siamo incontrati era che avremmo usato parole naturali, e poi abbiamo cominciato a interrogarci sul significato di parole naturali. Quello che volevamo dire è che avremmo parlato delle questioni tecniche. Abbiamo parlato di questioni tecniche in modo comprensibile e senza usare tecnicismi. In seguito si è elaborato un po' questa cosa. Abbiamo scoperto, per esempio, che anche nel parlare di questioni politiche si usano dei tecnicismi molto forti, e che per alcuni sono familiari e per altri no. E dunque stiamo ancora cercando di trovarle, queste parole naturali. Volevo offrirvi un... Cioè, vuol dire sussunzione non si può dire. Vi dico due parole sul documentario. Allora, il documentario si chiama Nothing to Hide ed è stato appena terminato, perché è stato terminato nella seconda metà del 2017, verso fine 2017, da due documentaristi, uno francese e uno tedesco. Marc Moussialnot, il francese, il tedesco in questo momento il nome non lo ricordo. Il documentario, il titolo è abbastanza significativo, no? Fin tuoi vuol dire nulla da nascondere, ed è una frase che viene utilizzata spesso quando, cioè io l'ho sentita spesso anche quando mi è capitato magari di cercare di avvertire o di allertare qualcuno rispetto a delle pratiche o a come tutelare la sua privacy o come tutelare alcuni aspetti della sua vita, soprattutto digitale. Spesse volte la risposta classica che si ottiene è: io comunque non ho nulla da nascondere, dunque non ho nulla da temere. Possiamo ricordare che la frase chi non ha nulla da nascondere e nulla da temere ha un progenitore illustre, se non sbaglio il primo ad usarla, ad averla usata in maniera forte è stato Goebbels, il ministro della propaganda nazista, il quale diceva appunto chi non ha nulla da nascondere non ha nulla da temere. Il documentario è costruito in forma di indagine, più o meno, e diciamo che cerca di descrivere quelli che sono i pericoli della totale trasparenza in rete, che è un ambizioso come progetto perché ancora le ricadute finali, diciamo, di un'assoluta trasparenza non si sono verificate. Pochi di noi credo che possano conoscere qualcuno che abbia subito delle grosse conseguenze. Diciamo che le assicurazioni non hanno ancora alzato il mutuo personalizzandolo a seconda di quanto la gente fuma, e questo potrebbero averlo scoperto attraverso i social, oppure le banche non hanno alzato, scusate, il mutuo sono le banche, le assicurazioni non hanno alzato la rata, le banche invece non hanno deciso ancora se concedere dei mutui o meno a seconda di informazioni che possono aver raccolto in maniera più o meno arbitraria, eccetera eccetera. Abbiamo questo documentario perché alcuni di noi hanno partecipato alla traduzione in italiano, perché il documentario è in inglese, in francese e in tedesco, e dunque i sottotitoli in questo momento sono alla loro ottava revisione, dunque perdonateci se ci sono degli errori, ci sarà una nona revisione dopo questa. Spero che questa conoscenza ti sia utile e mi auguro che tu la condivida.